I 6.000 abitanti di Moglia vivono a meno di un chilometro dal confine tra Emilia-Romagna e Lombardia e a 5 chilometri di distanza da Novi di Modena, epicentro di una delle scosse più forti di 6 mesi fa. Hanno subito gli stessi danni ed affrontano gli stessi problemi dei loro vicini emiliani, quindi. Diverso, però, è l'approccio alla questione delle rispettive regioni di appartenenza. Federica Gualtieri, assessore alla coesione sociale del comune di Moglia. Per quanto riguarda l'Emilia, diciamo che c'è stato un intervento della regione più sul territorio, diciamo più sul locale, mentre invece per quanto riguarda la regione Lombardia, la regione è sempre stato per noi un punto di riferimento, ma tante scelte sono state poi delegate a livello locale. Ad esempio, il tema che ho affrontato io, che è quello delle case, dopo la chiusura del campo della Tendopoli, c'è stato un lavoro sinergico tra regione, tra protezione civile e comune per trovare la casa agli sfollati, e anche associazioni locali hanno operato in questo senso. Ad esempio, c'è un'associazione che si chiama Una Casa per Tutti, che è frutto dell'integrazione tra Caritas, provincia di Mantova e vari comuni, che si è data molto da fare per trovare le case. In Emilia credo che la regione abbia maggiormente operato direttamente. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, Moglia.